Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati, rieccoci alla nostra finestra settimanale sulla cultura internazionale. Panem et circenses, dicevano gli antichi romani, pane e divertimento, a indicare una indiadi perfetta per assicurare il consenso ai governanti. Se la gente va allo stadio con la pancia piena e si diverte, non protesta e chiude un occhio anche davanti ai soprusi dell'imperatore. Carmina non dant panem, diceva un altro adagio latino, la poesia non dà da mangiare. Beh, la poesia forse no, ma l'atletica, lo sport professionistico, a volte sì, soprattutto nei paesi poveri dove i guadagni dei campioni di corsa o di marcia servono da volano all'economia locale. In un momento di recessione mondiale, anche questa fonte di guadagno, quelle degli atleti, stanno rallentando, stanno venendo meno e questo ha un impatto molto grave sulle economie dei paesi in via di sviluppo. Di questo ed altro parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo cosa prevede il sommario di oggi. Kenya, in pericolo l'atletica keniota. Gli sponsor non investono più e gli atleti devono rinunciare alle gare. Inghilterra, verrà costruito a Southampton un museo dedicato al transatlantico più famoso del mondo, il Titanic. Stati Uniti, raduni di poesia per i cowboy. I rodei sono sorpassati, i giovani allevatori si sfidano a suon di poesie. Francia. Nonostante la crisi, è boom di presenze nei musei francesi. Qual è la ricetta magica? Cuba. L'arte riavvicina Stati Uniti e Cuba. A Havana è stata inaugurata Chelsea Visits Havana. Gli artisti contemporanei di New York per la prima volta in trasferta nell'isola di Fidel. Si parlava di crisi economica, come se ne parla tutti i giorni, ma a quanto pare i musei non risentono della crisi, o quantomeno non quelli francesi che, secondo un articolo di Claire Baumeler sul Figaro, sono presi d'assalto, soprattutto nel 2008 hanno avuto ben più di 52 milioni di visitatori che almeno una volta sono entrati in uno dei molti musei francesi. Ma quali sono i segreti di questo successo? Lo spiega l'articolo del quotidiano francese. Dice anzitutto una diversificazione dell'offerta, il fatto che i musei offrono visite su misura, atelier per i bambini, conferenze nei pomeriggi. E poi c'è l'effetto, diciamo, internet, che permette, come dire, di allargare l'offerta raggiungendo molti più utenti potenziali. E poi ci sono così, come dire, degli effetti quasi mondani, quasi di moda, come è avvenuto per la collezione Berger Saint-Laurent al Grand Palais di Parigi, che ha avuto 35.000 visitatori in due giorni, un vero e proprio record. Ecco, su queste cifre ci sono i commenti poi dell'ex ministro della cultura francese Luc Ferry, che è anche un filosofo e uno scrittore molto polemico e che anche in questa occasione sfodera la sua proverbiale grinta dicendo, beh sì, dice, tutta questa attenzione per la cultura, tutte queste folle che vanno nei musei, non bisogna considerarle soltanto un fatto positivo, c'è molto così di consumismo culturale, cioè nelle nostre società si è perso il senso di ciò che conta, di ciò che vale. Ecco, ma su questi temi nel frattempo ci ha raggiunto un ospite che salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi, il professor Andrea Carandini. Benvenuto alla Finestra sul Cortile. Eccomi da voi. il professor Carandini, archeologo di fama e attualmente presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Ecco, professor Carandini, questo successo, questo boom dei musei in Francia non sembra trovare un corrispettivo invece nei nostri musei, perché gli ultimi dati vedono addirittura un calo, cioè i nostri pare che abbiano risentito di più della crisi, c'è stato un calo di visitatori sensibile in tutti i musei italiani. Come mai questa differenza? La mia opinione è che mentre in Italia l'azione di tutela ha avuto dei notevoli successi e funziona, naturalmente potrebbe funzionare ancora meglio, ma funziona, la valorizzazione è a grado zero. Ecco, cosa io parlo da archeologo, sì, ma se sì, voi pensate che al Foro del Palatino non c'è una singola didascalia, uh-huh, questo la dice. Oppure nei musei ci sono delle didascalie in cui si parla di oinokoe, certo, una brocca, eccetera. Quindi diciamo che i nostri musei sono ancora predisposti per un pubblico elitario borghese che aveva una grande cultura classica alle spalle e quindi non aveva bisogno di una presentazione, di una narrazione, perché il singolo individuo era in grado di farsi la narrazione che desiderava sulla base della propria cultura. E ora invece il pubblico è cambiato, si passa da un'elite a una massa, la quale naturalmente di fronte a degli oggetti presentati in modo inadeguato e a dei servizi inadeguati anch'essi e di fronte a un apparato esplicativo o inesistente o fatto per sì, studiosi per addetti ai lavori sì, si ritrae, certo, si ritrae o non fa quei passi avanti che potrebbero essere fatti. Ecco, un'altra delle ragioni che si vengono spesso addotte è il fatto che i musei italiani non hanno spazio per esposizioni temporanee, però per esempio nel caso di Brera abbiamo avuto recentemente un esempio di grande successo e l'esposizione di un singolo Caravaggio ha attirato una quantità di visitatori straordinaria che non c'è normalmente nelle sale della Pinacoteca Milanese. Sì, perché adesso non basta avere l'oggetto bello, indubbiamente bisogna in qualche modo presentarlo, ci vuole una rappresentazione dell'oggetto al di là dell'oggetto, non basta l'oggetto in sé. Certo, ecco, e poi comunque c'è un apparato, se vogliamo, di marketing, no, che in questi casi interviene da certo, all'esposizione del quadro. Il museo normalmente non ha. Sì. Poi se voi pensate anche ai nomi dei nostri musei, adesso faccio un esempio dei musei romani, uno si chiama Palazzo Altem, un altro si chiama Palazzo Massi, anche i nomi stessi sono incomprensibili a un grande pubblico e quindi mentre per il cinema c'è un passaparola che funziona, per i musei questo passaparola non c'è e il pubblico resta interdetto e naturalmente si astiene. Mi hanno detto che le visite del FAI hanno molto successo, non solo ovviamente perché fa vedere dei beni normalmente irraggiungibili, ma perché sono spiegati da dei volontari, certo, cioè da delle persone che non sono particolarmente colti. Cioè le sedi deputate, come non so, l'università, il museo, sanno di vecchio, non vengono frequentati. Basta uscire, come dire, da queste scatole e predisporre dei luoghi ad hoc, allora a quel punto il pubblico interviene. Se io faccio lezione ho pochi studenti, ma se parlo all'auditorium ho molti ascoltatori, perché è una sede giusta, non so se sì, mi capisce, giusta per il pubblico di oggi. Ecco, senta, secondo lei è più importante portare un Leonardo, un Michelangelo a Tokyo oppure attirare più turisti giapponesi agli Uffizi? Noi dobbiamo attirare, ma per attirare dobbiamo, secondo me, questa è la mia idea, raccontare. L'unico modo per avvicinare un pubblico meno colto, poi un pubblico soprattutto che viene da delle civiltà per le quali l'imperatore Adriano equivale a un imperatore della dinastia Ming cinese, cioè quasi nulla per noi, è chiaro che il racconto è molto importante. Allora, bisogna raccontare le opere d'arte. Per esempio, con grande chiarezza, insomma, in maniera anche didascalica, se vogliamo, in maniera divulgativa. Anche lì però bisogna non eccedere, ma per esempio, come mai nelle didascalie non c'è mai il contesto originario? Sì. C'è il soggetto, l'autore, il museo e basta. O se è una mostra, il museo. Cioè il contesto, per esempio, non viene quasi mai evocato. Viene trascurato, insomma. Salutiamo il professor Carandini e i migliori auguri per il suo prezioso lavoro a tutela dei beni culturali. Vi ringrazio e ho bisogno di questi auguri e anche di consigli. Il Titanic dal film al museo. Southampton, la città inglese che fornì la maggior parte dell'equipaggio per il transatlantico affondato nel 1912, si prepara ad allestire un grande museo per celebrare il centenario della tragedia nel 2012. Ne parla Stephen Bates sul Guardian. Nel museo, per il quale sono stati stanziati 500.000 sterline, saranno esposti molti dei 4.000 oggetti che sono stati recuperati nel corso del tempo dal relitto, come piatti, posate, lettere e menù. C'è ancora viva una 97enne, Milvina Dean, sopravvissuta al naufragio. C'è un'altra coincidenza, che il 2012 sarà anche l'anno delle Olimpiadi di Londra. Speriamo che la coincidenza si fermi qui. Che fine hanno fatto i cowboy, gli eroi di tutti quei film di Hollywood che abbiamo visto da ragazzi e che ormai non figurano più in quasi nessun film di oggi? Soprattutto i ranch, le terre dove un tempo scorrazzavano queste figure mitiche, e si sono trasformati. Non ci sono più mandrie di bufali, ma soltanto grandi case di miliardari e campi da golf. Ma i cowboy si sono ormai dedicati a un'altra attività molto più nobile, che è la poesia, tant'è vero che c'è addirittura un sito web, cowboypoetry.com, dove si scambiano i loro componimenti. Beh, i cowboy, come sappiamo, significa ragazzo vacca, mandriano. Beh, se i cowboy scrivono poesie, la verità è che molti poeti scrivono vaccate. La finestra sul cortile. I titoli tossici che hanno portato alla rovina le borse, i mercati finanziari di tutto il mondo, avvelenano anche lo sport, l'atletica e chi di atletica vive. La crisi corre e gli atleti non corrono più, segnano il passo, e questo avviene anche nei luoghi consacrati allo sport, all'atletica, come in particolare la Rift Valley del Kenya, che è la culla di molti dei grandi marciatori e corridori che noi abbiamo ammirato alle Olimpiadi. La capitale atletica del Kenya si chiama Iten, e proprio da Iten un articolo di Karen Allen su BBC News ci informa che la crisi economica comincia ad avere un impatto molto negativo sugli sponsor che sostengono questo sport. Gli atleti nella Rift Valley corrono tutti griffati e sponsorizzati da capo a piedi, da Nike, Adidas e Puma. Attualmente però, in questo momento di crisi, anche queste società incominciano a tagliare i costi e quindi a ridurre il loro investimento. Se in passato un atleta, soprattutto un atleta affermato, arrivava a guadagnare fino a 3 o 5 milioni di dollari l'anno, che è poco rispetto a un calciatore, ma certamente molto in un paese dove la gente vive con un reddito medio di un dollaro al giorno, e chiaramente questo influisce su tutta l'economia di quest'area, che si sostiene proprio spesso grazie ai guadagni reinvestiti degli atleti. Per esempio il maratoneta Elias Maindi, che doveva partecipare alla maratona di Vienna il mese prossimo, è stato informato dai suoi sponsor che è meglio che rimanga a casa, perché non ci sono soldi per sostenere il viaggio e la sua partecipazione. Anche una delle atlete donne più famose del Kenya, Helen Kimutai, ha deciso di abbandonare le corse e di dedicarsi piuttosto alla coltivazione nella sua fattoria, perché le rende di più e le permette di mandare i suoi figli a scuola. E anche Asbel Kirprop, il medaglia d'argento ai 1500 metri nelle Olimpiadi di Pechino, che ha ben 7 figli, dice che in questo momento la caduta degli investimenti nello sport rischia di deprimere fortemente anche la crescita culturale e la scolarizzazione delle giovani generazioni keniote. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono un ospite che salutiamo, Fiona Mail, grazie di essere con noi. Prego, ciao. Fiona Mainen, che conosciamo per le sue imprese atletiche, le sue medaglie olimpiche nel salto in lungo, attualmente è un'attrice impegnata in un serial televisivo che vediamo ogni giovedì su Rai 1, Butta la Luna 2, che è dedicato insomma in qualche maniera ai temi dell'integrazione, quindi dell'integrazione in un paese multiculturale come è l'Italia, ma evidentemente in qualche maniera riguarda anche i problemi dei paesi poveri, di chi da quei paesi proviene. Fiona, ma quanto guadagna in media oggi un atleta? Quanto può guadagnare? Perché qui fanno delle cifre, 3 milioni, 5 milioni di dollari all'anno, che in un paese povero come il Kenya sono veramente tanti. Dipende, perché dipende anche dalle specialità fate, come tipo Usain Bolt, lui può arrivare anche in queste cifre qui, però ci sono quelli atleti che fanno anche i lanciatori, i saltatori, guadagnano un pochino meno, Certo. E specialmente se sei una donna che non ha vinto le medaglie, sì, medagliette, però prende soldi via le federazioni, via le sponsor, però non guadagni così tante quelle cifre che noi sappiamo, come tipo le maratonette e i velociste. Perché quelle velociste, le maratonette, sono diciamo delle specialità più spettacolari? Sì, o per più spettacolari e loro mettono più le pubblicità, è più spettacolare per fare pubblicità, eccetera, più che altro di salto o lanci. E dipende dal personaggio pure, però è logico. La differenza è quello, perché anche le donne atletiche, le donne che fanno atletica guadagnano molto meno di quelle del nostro controparte di maschile. Certo, questa crisi degli sponsor, i tagli degli investimenti che stanno colpendo l'atletica, si sentono anche in Italia? Ma sì, ma già sentivo già da qualche anni, perché si vede piano piano non ci sono le meeting che c'erano in Italia. Mi ricordo tipo 92, sto andando proprio indietro tanti anni fa, poi adesso piano piano ogni anno che è passato sempre meno. Infatti io ho fatto tante delle gare in estero più che altro in Italia, perché mi ricordo tipo 92 ho fatto almeno 10 gare in Italia e in giro, e adesso non ci sono più, e significa che cioè, i soldi stanno, non ci sono più. E poi piano piano adesso la crisi economica che viviamo adesso sta colpendo anche le grandi griffe, Nike, Adidas, Puma, ma non mi sorprende perché sta toccando a tutti. Certo. Quelle di atleti che non possono gareggiare, tipo da maratoni, da mezzofondisti, keniani, specialmente in questi atleti che dipendono la loro vita anche da famiglia, sulla federazione, sulla sponsor. Si vede sta toccando a tutti adesso, certo. Io ho paura, sta peggiorando pure, non solo per gli atleti ma anche per le meeting, perché le meeting invece facciamo tipo il Grand Prix, vedrai, toccano loro quest'anno quando fanno il campionato mondiale e anche il Grand Prix, e invece 20 sarà tagliato tipo 12-15, ho certo. Paura per questo. Tornando al Kenya, come si spiega secondo lei questa alta concentrazione di atleti, soprattutto velocisti, marciatori, maratoneti, in quella ristretta area della Rift Valley? Perché proprio lì in tutto il mondo? Non lo so, io posso immaginare, e ho sentito anche atleti quando facevo atletica, loro camminano, corrono a scuola quando da piccoli, capito? Allora il loro, per dire, è la loro vita, la loro cultura per correre o camminare. Certo. E lì è una via per loro, per uscire per guadagnare. Io penso non solo in Africa, in Kenya e anche in Cerata, infatti penso che sta beccando anche l'Etiopia. Perché le loro culture per camminare, perché le macchine non ci sono, allora per certo. Loro per camminare o andare a scuola ci vuole 5 km, anche 10 km, sono sicuro sono abituati a camminare o correre, in questo caso correre. Quindi imparano fin da bambini, insomma. Sì, io penso di quello, ma anche adesso dal talento si vede, i talenti sono da lì, capito, che corrono come le gazzelle. Capito, c'è lo stile, è una cosa allucinante, si vede, specialmente si vede una gara, se loro corrono da vivo fa veramente affetto, loro c'hanno il loro sangue, diciamo così, perché certo. È vero, è bene, vero. Ringraziamo Fiona May, a presto, alla prossima. Grazie. Dal Kenya a Cuba, dove il disgelo tra Washington e L'Avana passa anche attraverso l'arte contemporanea. Centinaia di cubani fanno la coda per andare a vedere al Museo de Bellas Artes dell'Avana una grande esposizione d'arte contemporanea che si intitola Chelsea Visits Havana. Chelsea è un quartiere di New York dove ci sono le maggiori gallerie di arte contemporanea. Ci sono 30 artisti da più di una ventina di gallerie di New York che espongono, e questo è un modo di dimostrare l'amicizia tra i due popoli. Una delle opere più ammirate è quella dell'artista newyorkese Padraig Tarrant, ed è un bassorilievo in legno che rappresenta Fidel Castro e Barack Obama che si guardano negli occhi. Il titolo dell'opera è Castro Bama, un simbolo di quello che potrebbe rappresentare il disgelo nelle relazioni tra i due paesi. Beh, vista la longevità del leader massimo, speriamo che sia di buon auspicio anche per il presidente USA. E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione, Valeria Bernardi in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiabergi vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.